Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Qua. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, il Natale di Radio 24. Vi regala questa sera Focus Economia condotto dalla sottoscritta, per cui non cominciamo a scrivere messaggi dove è finito Barisoni, non c'è. Stasera ci sono io, pronta qua a raccontarvi la giornata dal punto di vista, come sempre, della cronaca finanziaria nazionale ed internazionale. E oggi ancora una volta il tema internazionale, quello che ci interessa maggiormente, perché ci sono ancora notizie che riguardano naturalmente la Russia, notizie che riguardano la Grecia. Anche se oggi il mercato, con questo più 2% sul FTSE MIB a Piazza Affari, il più 3% di Parigi, il più 2,23% di Francoforte, bene anche Londra, più 2, ben impostata anche Wall Street, è un mercato che più che altro premia oggi le notizie che sono arrivate ieri sera dagli Stati Uniti, dove, come nelle attese, c'è stata la riunione della Banca Centrale Americana, la due giorni del Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Federal Reserve. Janet Yellen, come nelle attese, ha dato un'indicazione un po' più precisa rispetto agli ultimi meeting sull'inizio della politica monetaria rialzista negli Stati Uniti. Ha detto: abbiamo pazienza e potremmo ricominciare ad alzare i tassi di interesse non prima del primo semestre dell'anno prossimo. Il mercato guarda al mese di aprile come mese potenziale per il nuovo aumento. Il primo nuovo aumento dei tassi di interesse dopo molto tempo negli Stati Uniti. Ha usato toni nuovi Janet Yellen rispetto agli ultimi meeting della Federal Reserve, e naturalmente questa è stata una decisione presa anche perché non è che gli Stati Uniti non si siano spaventati rispetto a quello che è successo nelle ultime settimane su altri versanti geografici. È chiaro che la guerra del petrolio che si è scatenata, che ha avuto questo impatto così dirompente in Russia, gli Stati Uniti lo guardano ovviamente con grande apprensione, per cui Janet Yellen ha detto: sapete che vi dico, per aumentare i tassi di interesse ancora possiamo prenderci del tempo. E chiaramente questo è proprio stato il momento centrale della giornata di ieri, ed era quello che i mercati si aspettavano, quello che gli operatori volevano. Infatti oggi lo vediamo anche dall'andamento della seduta di borsa. Ne parleremo, ma naturalmente guarderemo soprattutto la Russia. Oggi rublo di nuovo in altalena, così come la borsa di Mosca, anche se poi successivamente a questa conferenza stampa di Vladimir Putin, che era molto attesa, un po' il mercato si era serenato. Ha usato dei toni anche piuttosto coloriti il presidente, che tra l'altro, da quando in questi giorni è cominciata questa situazione proprio di montagne russe, abbiamo richiamato più volte questa immagine per descrivere l'andamento dei mercati russi in questi giorni, era la prima volta che Putin parlava. C'era questa attesa conferenza stampa sostanzialmente di fine anno, nel corso della quale ha detto, utilizzando l'immagine dell'orso russo: vogliono che stia seduto tranquillamente a mangiare bacche e miele, ma tentano di metterlo in catene, di togliergli i denti e gli artigli. Questo è il deterrente nucleare, e Putin chiaramente non lo accetta. Ha detto che ci vorranno 2 anni per superare la crisi attuale, un lasso di tempo interessante considerate le dinamiche dell'economia russa, ma insomma vedremo anche che cosa ne pensano poi gli esperti che abbiamo chiamato e interpellato per questa sera per commentare queste novità. Grecia, non vogliamo guardarla, guardiamo anche alla Grecia. Ha cominciato il primo round per le elezioni presidenziali. Non è andato bene come nelle attese, ci sono adesso altri 2 turni elettorali, vedremo un po' insomma che clima si sta manifestando anche in Grecia da questo punto di vista. Questi sono fondamentalmente i temi che affronteremo questa sera. Per quello che riguarda il mercato, vi dicevo, ci si sta accingendo a chiudere positivamente questa giornata, abbiamo ancora più di un quarto d'ora di tempo, ma in ogni caso più 2,22% sul FTSE MIB a Piazza Affari. Vanno bene tutti i titoli, tutti in forte recupero, tutti i settori. Il bancario, naturalmente il comparto bancario è quello che teniamo sempre più sotto osservazione, ma non appartiene al gruppo di chi rimbalza vigorosamente, Monte dei Paschi, perché anche oggi mette a segno un meno 2% in borsa. Va male anche Campari, va male anche Saipem, ma per il resto ci sono solo questi 3 titoli negativi in questo momento a Milano, tutti in positivo e anche in maniera piuttosto consistente. Questo un po' sono i principali temi che affronteremo questa sera. Per quello che riguarda peraltro la borsa, siccome è un momento anche, a prescindere poi da come stanno andando i mercati internazionali, in realtà per Piazza Affari zitta zitta sta mettendo a segno quest'anno un piccolo record per quello che riguarda i debutti, le nuove quotazioni, è particolarmente vivace il segmento AIM. Parleremo oggi proprio di una società che si è quotata in questa giornata, una società che opera nel settore dell'accessoristica per l'occhialeria, e quindi anche questo può essere guardato, insomma, come un fatto positivo di incoraggiamento per la borsa italiana, che continua ad essere piuttosto piccolina, ma in ogni caso qualche fermento c'è. Se volete commentare con noi i fatti del giorno, potete farlo con la modalità di sempre al 349-238-6666, quindi inondateci se volete dei messaggi. Adesso rapidamente le notizie in breve. Stanno già cominciando gli ascoltatori a commentare le vicende greche, si va fuori dall'Europa, insomma qualcuno già intravede uno scenario davvero terribile. Non siamo ancora a questi livelli, ancora dobbiamo aspettare qualche settimana per verificare appunto cosa potrà succedere in quell'area. Intanto cominciamo con gli Stati Uniti, dove intanto diamo come sempre il prezzo delle materie prime in apertura. Per quello che riguarda l'oro, oggi si viaggia a 1.194 dollari l'oncia, il petrolio sempre più in giù. Negli Stati Uniti il WTI, il greggio di riferimento americano, è a 56,8 dollari al barile. La Federal Reserve, dicevamo, ieri ha lasciato invariati i tassi di interesse che restano fermi appunto in questo corridoio bloccato da tempo fra lo 0 e lo 0,25%, ma è stato cambiato il linguaggio da parte della Banca Centrale Americana, ribadendo che i tassi resteranno bassi per un considerevole periodo di tempo. Si ritiene di poter essere paziente nell'iniziare a normalizzare la politica monetaria. Quasi tutti i governatori della Fed prevedono un aumento nel 2015. Una notizia molto interessante oggi, passata forse un po' in sordina, ma è arrivata dalla Svizzera, dove la banca centrale ha deciso di introdurre tassi negativi sui depositi nell'ordine del meno 0,25% dal prossimo 22 gennaio. Una decisione presa per proteggere il franco alla luce della crisi finanziaria in Russia e anche in previsione di ulteriori mosse espansive della BCE. Negli ultimi giorni una serie di fattori hanno spinto la domanda di investimenti sicuri, spiega la Banca Nazionale Svizzera. L'introduzione di tassi negativi rende meno appetibili gli investimenti in valuta svizzera. È una decisione che anche la Banca Centrale Europea aveva preso settimane addietro per scoraggiare le banche dal depositare il loro denaro presso la BCE anziché darlo all'economia reale. L'attesa conferenza stampa di Putin oggi, dopo che ha parlato il presidente russo, il rublo ha ripreso un po' terreno, ritoccando 61 rubli per un dollaro, 75 rubli per un euro. Ma cosa ha detto il presidente? Poi lo approfondiremo. Abbiamo le risorse sufficienti per affrontare la crisi, il ritorno alla crescita è inevitabile, nel peggiore dei casi ci vorranno 2 anni. Nel frattempo ha ammonito il presidente: il paese deve anche diversificare la sua economia. D'altronde il muro di Berlino è crollato, ma si costruiscono nuovi muri nonostante i nostri tentativi di collaborare. L'espansione della NATO non è forse un muro? Un muro virtuale? Si è chiesto il presidente, appunto il leader del Cremlino. I nostri partner si credono un impero, ci vogliono vassali, sempre abbastanza provocatorio anche nei toni oltre che nelle parole. Non temo colpi di palazzo perché non abbiamo palazzi. Abbiamo il Cremlino che è ben protetto, ma la cosa più importante che abbiamo è il sostegno dell'anima e del cuore dei cittadini russi. Anche un po', insomma, una verve romantica ha voluto manifestare. E infine, la crisi economica in Russia è il prezzo della Crimea? Gli è stato chiesto. Putin seccamente ha risposto no, è il prezzo per il naturale desiderio di sopravvivere come nazione. Intanto oggi ci sono state nuove sanzioni approvate dall'Unione Europea: stop agli investimenti europei in Crimea, divieto di offrire servizi turistici, compresi gli attracchi delle navi da crociera europee nel porto di Sebastopoli, blocco dell'export di alcuni prodotti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Questi i punti principali. La stabilità dell'economia russa è nell'interesse di tutti, comprese le molte imprese italiane che vi operano e hanno un legame forte con il paese. Oggi questo lo ha detto il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, giudicando positivamente le misure per la stabilizzazione del tasso di cambio decise da Mosca. Ricorderete, la Banca Centrale Russa due giorni fa ha deciso rapidamente un aumento dei tassi di interesse dal 10,5 al 17%. La Russia è nel mezzo di una crisi finanziaria, è importante che questa venga fermata, ha aggiunto Padoan. E poi Renzi oggi al vertice europeo, mi pare che un passo avanti ci sia stato. Il piano Juncker va nella nostra direzione nel considerare gli investimenti fuori dal patto di stabilità e crescita, lo ha detto oggi Renzi. Peraltro a Bruxelles ci andremo più tardi con il nostro Sergio Nava. C'è stato anche un commento relativamente all'accordo di libero scambio, il TTIP, che è stato siglato tra Stati Uniti e Unione Europea. È un'opportunità per l'Italia, l'ha ribadito Renzi, spiegando che questo accordo deve andare avanti e deve essere collegato ad un'altra grande battaglia italiana, quella del Made In, legata anche al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. La Grecia si è conclusa ieri sera, sapete, con un nulla di fatto, la prima tornata per eleggere il nuovo presidente della Repubblica greco, ne parleremo tra poco. A proposito peraltro anche di questo focolaio greco, Padoan è intervenuto oggi anche su questo e ha detto di sentirsi convinto del fatto che non c'è nessun rischio contagio dalla Grecia all'Italia, basta guardare l'andamento dei titoli, cosa che anch'io faccio tutti i giorni, ha aggiunto il ministro dell'economia. Ed effettivamente, poi magari vi darò qualche dettaglio, oggi il BTP a 10 anni ha toccato un nuovo record minimo all'1,92%, lo spread è scivolato a 135 punti base. Padoan però guarda anche al petrolio e ha detto il petrolio a $60 al barile prolungato nel tempo potrebbe anche essere una buona notizia. Il prezzo del petrolio a $60 il barile, se persistente nel tempo, potrebbe essere una buona notizia, più che buona, perché a parità di altre condizioni, per esempio, si stima che questo vale 0,5 di crescita in più, che con l'aria che tira è un numero molto importante. Altre dichiarazioni del ministro dell'economia: nei prossimi mesi ci sarà una ripresa della crescita debole che via via si andrà rafforzando. Mi piace pensare che sia frutto non solo di una svolta ciclica, ma di un cambiamento positivo nella struttura economica del paese. Sentiamo anche questa dichiarazione del ministro dell'economia, che interviene anche sulla questione del debito. Nel valutare l'Italia la Commissione guarda alle quantità, ma guarda anche alle qualità. Guarda anche alle riforme strutturali, che sono un elemento essenziale per il Paese, sia perché servono al Paese per aumentare il potenziale di crescita, sia perché servono al Paese per accrescere ulteriormente la sostenibilità del debito, che naturalmente è un debito elevato, è un debito che comincerà a scendere nel 2016. La ragione per cui il debito non scende prima è una ragione in gran parte fuori, purtroppo, dal controllo della politica economica del governo, perché ha a che fare con un'inflazione estremamente bassa, laddove l'inflazione di equilibrio per l'Europa, e questo è un dato acquisito, dovrebbe essere vicino al 2%. Ribadisco una cosa, che se l'inflazione oggi fosse al 2%, con il surplus primario che noi continuiamo ad avere da moltissimi anni, a differenza di molti altri paesi, con lo sforzo di riforme strutturali che aumentano la crescita di lungo termine, il nostro debito sarebbe su un sentiero di forte discesa e quindi tale da non fare assolutamente alcuna notizia. Allora, al via nell'aula del Senato l'esame della legge di stabilità. In serata è atteso il maxi emendamento del governo sul quale l'esecutivo dovrebbe porre la questione di fiducia, che potrebbe essere votata in nottata. Domani dovrebbe arrivare l'ok al provvedimento sul bilancio, dopodiché la manovra passerà alla Camera per il voto finale. Job Act, il reintegro nel posto di lavoro del lavoratore licenziato per motivi disciplinari, sarà possibile solo se i giudici dovessero decidere che il fatto materiale non sussiste. E quanto prevederebbe il decreto di attuazione della riforma appunto del lavoro, la parte riguardante il contratto a tutele crescenti, che dovrebbe essere esaminato il 24, quindi la vigilia di Natale, dal Consiglio dei Ministri. Non solo TASI e IMU, i comuni stanno inviando in questi giorni bollettini per il pagamento di una rata della TARI. Io per la verità l'ho già pagata più di un mese fa, la tassa sui rifiuti, per un incasso totale di circa 8 miliardi, lo calcola il centro studi di Federconsumatori, secondo il quale l'aumento medio per quest'anno sarà del 2,84%. Fra il 2010 e il 2014, stima sempre il centro studi di questa grande organizzazione dei consumatori, l'aumento medio per un appartamento di 100 metri quadrati con un nucleo familiare di 3 persone è stato del 20,6%, pari a 50 euro e di molto superiore all'inflazione. Lo sanno bene i consumatori, che stanno continuando appunto a lamentarsi del carico fiscale che hanno sul groppone. Nel 2013 le Coop hanno guadagnato più dalla finanza che dai supermercati, lo dice uno studio di Mediobanca. La gestione finanziaria, saldo tra proventi e oneri finanziari delle maggiori cooperative di consumo che hanno investimenti per oltre 12 miliardi, ha prodotto un saldo positivo di 210 milioni contro i 47 milioni di margine nella gestione industriale. Ormai abbiamo capito che il mondo delle Coop è finito sotto i riflettori di tutti ed è destinato a far parlare di sé ancora a lungo. Un'ultima notizia che riguarda Alitalia. Ad Alitalia tutto procede molto bene, siamo contenti, insomma, lo ha detto l'amministratore delegato di Etihad Airways, James Hogan, rientrando ad Abu Dhabi dopo una breve sosta di 24 ore a Roma. Giovedì la compagnia del Golfo, che ricordiamolo controlla il 49% di Alitalia, presenterà ad Abu Dhabi due nuovi acquisti, l'Airbus A380 e il 787 Dreamliner. Il matrimonio fra Alitalia ed Etihad è stato un ottimo affare per Alitalia, lo ha detto sempre Hogan, ribadendo che la transazione sarà chiusa entro fine mese e che per i prossimi 3 anni ci concentreremo sulla ristrutturazione di Alitalia. Hogan auspica che continui la cooperazione con Air France e KLM. A Lufthansa, che contesta però l'accordo, Hogan ha detto: io sono concentrato sul mio business, chiaramente Lufthansa è concentrato sul suo. Infine, gli scioperi avvengono comunque, insomma, paventando un po' eventualità di altre agitazioni fra i lavoratori. Probabilmente qualche giornalista ha stuzzicato Hogan su questo. Gli scioperi avvengono comunque, qualcosa di cui dobbiamo tener conto e siamo abituati a gestirli perché operiamo in un mercato globale. Prima del nostro primo approfondimento vi proponiamo i 100 secondi dell'economia di Radio 24 in collaborazione con RDS, questa sera a cura di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. È proprio il caso di dire questa volta che il Papa ha fatto il miracolo. È stato infatti grazie a un meeting proprio al Vaticano che gli Stati Uniti e Cuba hanno avviato una normalizzazione dei rapporti, una distensione che potrebbe portare di qui ai prossimi mesi anche a un grande incremento dei flussi commerciali fra due nazioni che sono state nemiche storicamente dall'epoca della Baia dei Porci. Ma che cosa significa in concreto questo accordo fra Stati Uniti e Cuba? Questo sicuramente, quando diciamo che è un primo passo, è perché ora dovranno esserci dei regolamenti che permetteranno a tutti i cittadini americani, ma anche ai cittadini stranieri che transitano fra Cuba e gli Stati Uniti, di riportarsi in casa, per esempio, i sigari, i famosi sigari cubani, ma anche altri beni e altri prodotti che finora erano parte di quella famosa lista di prodotti soggetti a sanzioni. Ma è anche di più del turismo, e questo riguarda un po' l'industria italiana. Finora, infatti, una legge americana che si chiama Helms-Burton ha impedito a tutte le nazioni occidentali di vendere prodotti ad alta tecnologia o comunque sensibili dal punto di vista strategico al governo cubano. Ebbene, presto si potrebbe allentare anche questo vincolo. Questo significa che le nostre imprese che lavorano in settori quali le telecomunicazioni, l'energia, ma anche forse si parla anche delle tecnologie per la difesa, potrebbero presto riaprire un mercato che è stato spesso, in altre occasioni, segno anche di dolore. Ricordiamo infatti che Telecom Italia fu sanzionata proprio dal governo americano per un investimento che aveva fatto a Cuba nella telefonia fissa. Fu costretta ad uscire e anche a pagare una sanzione. Come dire, oggi la realpolitik è anche quella del commercio. Se da una parte si colpisce la Russia per l'intervento in Ucraina, dall'altra si cerca di normalizzare e di distendere i rapporti con nazioni che una volta erano considerate rogue, ovvero aggressive, ma che ora sono importanti sia per la ripresa che per un nuovo ordine mondiale. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. non sia una strategia di Obama per confondere un po' le acque e virare l'attenzione degli osservatori internazionali rispetto a quello che sta accadendo con la Russia, che poi tutto sommato vede anche come protagonista diretto e indiretto gli Stati Uniti. Detto questo, adesso andiamo a parlare di Russia ma anche di Grecia. Intanto saluto Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Che è un grande appassionato anche di internazionalizzazione di imprese. Sentito, lo ha detto anche Renzi, quanto sia ovviamente importante continuare a portare avanti la battaglia del Made In da Bruxelles e non solo, e mi pare che sia oro colato. Ecco. È una battaglia che ancora non siamo riusciti a portare avanti a causa di alcune nazioni, fra cui appunto la Germania, che non amano questo Made In, che invece per noi è fondamentale, perché siamo apprezzati in tutto il mondo proprio per le nostre capacità, e questo sarebbe un bel colpo per noi. A proposito di Germania, visto che l'hai citata, allora oggi la Germania ha fatto qualcosa che si lega direttamente a quello che sta succedendo in Grecia, perché ha dato il via libera all'ultima tranche di aiuti che la Grecia appunto si aspetta, proprio in concomitanza con questo insuccesso della prima tornata elettorale per la designazione del nuovo Presidente della Repubblica. Spiegaci la liaison fra questi due fatti. Sì, ormai qualsiasi cosa noi trattiamo bisogna sempre poi collegarla a un aspetto sempre più ampio. Allora, in Grecia al 31 di dicembre avrebbe dovuto cessare il piano che però è legato all'Europa, la parte europea, perché era cominciato un po' prima e quindi finisce il 31 dicembre. Questo è nello stallo perché non si sono messi d'accordo per l'ultima tranche. La Troica ha chiesto, la famosa Troica, ha chiesto 19 nuovi provvedimenti. Il governo Samaras, sapendo che aveva questo problema della rielezione e della possibile, come voi sapete, la Costituzione greca prevede in automatico che se dopo 3 voti, tutti calendarizzati, quindi non si può votare finché non c'è il nuovo presidente, ce ne sono solo 3 voti e dopodiché si va appunto alle elezioni anticipate. A politiche in automatico. Sapendo questa situazione molto difficile, lui ha detto: non posso chiedere ai greci altri sacrifici così importanti. Esattamente, questa cosa all'inizio la Troica, come sempre, burocraticamente ha detto no. E quindi c'è stato uno stallo. Tra l'altro ti interrompo solo tanto per far capire di che tipo di sacrifici stiamo parlando. Avrebbero chiesto ulteriori sacrifici alle pensioni, esatto, ulteriormente l'IVA sul turismo, che era stata appena ridotta, quindi era un meccanismo abbastanza strano, perché prima consenti di ridurre sulla ristorazione, sugli alberghi, che è come voi sapete il 20% di dell'economia tutta l'economia greca è proprio sul turismo, e quindi sarebbe stata la classica batosta per questo settore, che invece quest'anno probabilmente sarà un nuovo record. Si parla di 18 se non 19 milioni di turisti, quindi veramente un grande afflusso grazie appunto alla ristrutturazione che hanno fatto, alla riduzione dei salari e tutta una serie di nuove efficienze che ha portato. Tutto questo quindi era stato visto come appunto un momento di rigidità. E il Parlamento tedesco, che a differenza di altri parlamenti, ci sono dei parlamenti in Europa che per qualsiasi lieve modifica o prospettiva di modifica devono essere chiamati in causa, il Parlamento tedesco è uno di questi, ha votato appunto perché i 2 mesi di proroga, è una proroga tecnica in realtà, resta ancora sotto copertura, sotto l'ombrello dell'Unione Europea. Tenete conto che il Fondo Monetario invece durerà fino al secondo trimestre del 2016, quindi la Grecia è in una situazione anche dal punto di vista, diciamo, del finanziamento abbastanza complicato. A questo, come voi sapete, avete già annunciato, c'è il problema di questa possibile impasse. Se non si vota il 29 dicembre non si raggiungono i 180 voti, che è la perché maggioranza. Perché i quorum naturalmente vanno a scendere a seconda del numero delle elezioni. Certamente, dal 200 che erano appunto i 2/3 si va ai 3/5. Ma a quel punto bisogna che la maggioranza, che ne ha solo 155 sulla carta, riesca a convincere altri deputati, magari di 2 partitini che sono nelle prospettive, nei sondaggi, non hanno la possibilità di raggiungere in caso di elezioni anticipate quel famoso 3% che è la soglia minima che consente ai greci, ai partiti, di entrare in Parlamento. Quindi punterà su questo meccanismo. Allora, io adesso devo fare tante cose, devo aprire la parentesi russa, devo andare in pubblicità, devo presentare il prossimo ospite, però voglio fare con te anche un ragionamento su quello che potrebbe succedere l'anno prossimo, che è un anno di tornate elettorali di non trascurabile importanza. Ci sono già paesi in difficoltà finanziaria che stanno cercando di tirarsi fuori fuori dalle secche come la Spagna, che andranno al voto, altri paesi molto meno problematici, ma a cui bisogna guardare lo stesso con attenzione, per cui ancora tante cose da raccontare. Nel frattempo Gianmarco Ferronato può andare in pubblicità, ma fammi salutare il prossimo ospite, Giorgio Arfaras, direttore lettera economica o economia, non mi ricordo mai se la CC va, del Centro Einaudi di Torino. Buonasera. Buonasera. Ce la mettiamo? Economica. Eccoci qua. Abbiamo, come dire, sintetizzato in questa maniera. Pubblicità, poi parleremo anche di Russia tra poco. Durante la pausa qua Leonardo Sirigato ci ha portato un sacco di veline da commentare con Vittorio Darold, ma anche con Giorgio Arfaras. Intanto il petrolio ha ripreso a scendere, così per la felicità di tutti, e siamo a $55,9 al barile, per cui una perdita rispetto all'ultimo aggiornamento che abbiamo dato di oltre un punto percentuale. C'è Samaras che sta parlando da Bruxelles: il sistema politico greco non permetterà a nessuno di giocare con questi risultati e questi sacrifici economici che hanno permesso ad Atene di avere il miglior avanzo strutturale e la maggior crescita dell'Eurozona nel terzo trimestre. L'incertezza politica, dice, verrà presto risolta, e a tutti i piccoli focolai, chiamiamoli un po' così, ma forse non è neanche il termine corretto, ma in ogni caso nella lista dei paesi che l'anno prossimo andranno a votazione, ad elezione, abbiamo anche una nuova parentesi che si è aperta in Olanda proprio negli ultimi minuti, perché il premier Mark Rutte, per tentare di superare il momento difficile, doveva andare a Bruxelles a partecipare al vertice europeo, rinuncia alla partecipazione, e a quanto pare è proprio perché sta traballando il governo in carica. Allora l'Olanda, questo outsider che non ci aspettavamo, ma è importante forse fare una piccola analisi rispetto anche a quello che succede in quest'area, Vittorio. Sì, esattamente. Guarda, questo, il 2015 è un anno veramente complicato per l'Europa. Allora ci sono le possibili elezioni greche, come appunto abbiamo appena sentito con Samaras, che cercherà in tutti i modi di evitarlo col 29 dicembre, cercando appunto di portare a casa il risultato con un presidente. Se però questo non accade, ci saranno appunto elezioni anticipate che hanno un rischio pericoloso, un rischio contagio, perché si riapre il problema con Syriza che vuole in qualche modo rimettere in discussione come vogliamo dire la permanenza nell'euro. Subito dopo ci sono le elezioni svedesi. La Svezia era un paese tranquillo, con una stabilità politica invidiabile, non è più così, in qualche modo si è avvicinata ai nostri modelli, quindi ha una difficoltà e deve andare al voto anticipato. Altro, attenzione a una votazione che avverrà in Gran Bretagna. Cameron, lì si gioca veramente un destino difficile, perché alla sua destra ha tutto il fronte, diciamo, degli anti-europei, e quindi se lì dovessero avere un exploit, ci sarebbe la possibilità che diventa un test per il paese per decidere di uscire dall'Unione Europea, perché lui si è in qualche modo ha aperto la possibilità di un referendum su questa vicenda. Ultimo, la Spagna, con il partito degli Indignados, che si sono trasformati in Podemos, che è una formazione assolutamente nuova ma molto anti-europea, anti-austerity, e che pochi conoscono bene perché ancora la sua classe dirigente è abbastanza innovativa, nel senso che è appena formata, ma con possibili anche lì situazioni disgreganti. Certo. Quindi ci sono, se io fossi un manager di un hedge fund, direi ai miei di stare molto attenti, perché non ci sono più naturalmente le valute diverse nell'eurozona, ma ci sono i famosi spread sui bond, e su questo si potrebbe veramente vedere peraltro qualcosa. Queste sono le aree dove le elezioni ci saranno per certo. Non abbiamo citato l'Italia, dove in realtà di questa eventualità ogni tanto si torna a discutere, perché qualcuno vorrebbe appunto che ci fosse un nuovo confronto elettorale. D'altronde abbiamo un governo che siede su quella poltrona senza avere un mandato dei cittadini e degli elettori italiani, per cui effettivamente è un tema affascinante. Vittorio, io devo andare a parlare assolutamente della Russia, ti lasciamo tornare a scrivere sul Sole, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Giorgio Arfaras, adesso vengo a lei naturalmente. Le le leggo quello che ha scritto oggi la collega Antonella Scott sul Sole 24 Ore a proposito di questo momento con i media di oggi di Vladimir Putin. Non sembra certo un uomo messo in difficoltà da quella che ormai tutti chiamano la tempesta perfetta. Dopo essere rimasto a lungo in silenzio, nei giorni in cui il rublo crollava, Putin è apparso oggi alla Camera del Commercio di Mosca e davanti alle TV russe per rassicurare mercati e concittadini e dare la propria versione dei fatti. Una svolta positiva e inevitabile, ha ripetuto, e senza neanche aspettare la prima domanda della tradizionale, lunga e attesissima maratona televisiva che concede ad ogni fine anno, il presidente russo ha elencato una serie di dati economici definendo inevitabile una ripresa del rublo e della crescita, chiarendo che le cause della crisi sono esterne, prima fra tutte il calo dei prezzi del petrolio. Ora, se vogliamo, il petrolio, visto che in 6 mesi è crollato del 50%, in altrettanti potrebbe recuperare altrettanto, quindi, però siccome sappiamo che la crisi russa non è solo questo, Arfaras, lei ci crede che in 2 anni si possa rimettere in pista dopo quello che è successo in questi giorni? Sì, però non cambierebbe la tendenza di fondo della Russia, che è quella di essere tutt'oggi un'economia basata sull'energia, una specie di, come potrei dire, di emirato con 14.000 testate nucleari, ma senza un'industria vera. Cioè la Russia, a differenza della Cina, non ha una base industriale diversificata. Vive esportando materie prime e quindi se anche tutto tornasse dove era, rimarrebbe un paese che importa quasi tutto quello che consuma, non ha una tecnologia che non sia militare, via andando. Quindi quello che dice Putin, se anche fosse vero, ed è possibile che lo sia, non risolverebbe il problema di fondo della Russia. E questo è il motivo per cui anche queste drastiche decisioni prese negli ultimi giorni dalla Banca Centrale Russa non hanno impedito poi che la speculazione sul rublo si fermasse, no? Perché portare i tassi di interesse nel giro di mezz'ora dal 10% al 17% non è una manovra di poco conto, Arfaras. Però io qui non fin tanto che c'era solo la crisi ucraina, noi avevamo un rublo tendenzialmente debole, ma niente di che, un consumo di riserve della banca centrale in riduzione, ma niente di che, e una crescita dell'inflazione, ma niente di che. Tutto quanto ha accelerato da quando il petrolio è caduto. E quindi per tenere il cambio hanno alzato i tassi, hanno incominciato a usare le riserve, il cambio si è comunque indebolito e sono saliti tantissimo i prezzi dei beni importati che si sono riverberati sul tasso di inflazione. Quindi diciamo la vera storia della caduta delle attività finanziarie russe, se vogliamo anche dell'economia, è la questione del petrolio. Non petrolio. È tanto, perché la questione dell'Ucraina è rilevante, nel senso che tu non puoi andare a cercare il petrolio nella Siberia del Nord se non hai la tecnologia. E la tecnologia ce l'hanno gli occidentali, ma questo è un processo lungo. Quando Putin dice se il prezzo del petrolio torna più o meno dove era, noi torniamo più o meno dove eravamo, e dice una cosa vera. Il problema è se è nell'interesse della Russia continuare a essere come è. C'è un paese che vive alla fine di energia. Però infatti, siccome attualmente è un paese che vive sostanzialmente di energia, secondo lei perché non se la prendono direttamente con i sauditi che si oppongono al taglio della produzione che farebbe tornare a risalire un po' i prezzi? Beh, uno potrebbe, diciamo, controargomentare maliziosamente che quando, mica tanto maliziosamente, che quando la situazione russa era veramente drammatica, quindi alla fine degli anni 90, i sauditi tagliarono la produzione di petrolio, il petrolio iniziò a salire come prezzo e questo salvò la Russia, perché allora il barile si aggirava intorno a $10 per barile, appunto, e grazie al prezzo del petrolio la Russia si è tirata fuori dai guai. Casualmente arrivò in quello stesso periodo Putin, che ha goduto della salita del prezzo del petrolio da $10 fino a 140, quanto era andato. Quindi i sauditi, quando vedono che è una situazione politica e incomincia davvero a girarsi negativamente, sanno bene come comportarsi. Evidentemente ad oggi vedono uno spazio per cui, insomma, diciamo così, se Putin diventa più duttile sull'Ucraina, si può rivedere. Quello che non mi convince del ragionamento che vi ho appena esposto, sì, è che se così fosse, cioè se fosse solo un problema fra i sauditi e i russi, il ragionamento terrebbe. Però abbattere il prezzo del petrolio non tagliando la produzione, quello che fanno i sauditi, implica che la caduta del prezzo del petrolio metta in difficoltà gli statunitensi come estrattori di petrolio da frantumazione di rocce. Lo shale oil. E questo mi impasticcia il mio modello saudita russo. E magari gliene fa creare un altro che evidentemente la, come dire, interesserà nei prossimi giorni nella formulazione dei suoi studi. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi e magari nei prossimi giorni torneremo un po' a disturbarla per chiarire ancora un po' queste dinamiche internazionali che, se chiaramente le guardiamo da qua, poi proprio anche per la dirompenza hanno un po' dell'incredibile e dell'inspiegabile. Grazie a Giorgio Arfaras per essere stato con noi. Anche qua mi sarò sbagliata ancora una volta a mettere l'accento. Direi che possiamo andare con i suggerimenti per chi è in viaggio e poi pronti a raccontarvi la giornata di borsa. Paio di commenti agli ascoltatori. Allora, chi mi contesta, come dire, i principi di diritto costituzionale che ho indicato poco fa, forse non ci siamo capiti, comunque sapete bene che il mandato di Renzi è stato assegnato a questo esecutivo in un determinato modo. Non esiste un Parlamento che è stato indicato appunto dagli elettori e che poi a sua volta ha formato un nuovo governo, per cui questo era quello che volevo dire prima, ma direi che lo lascio subito stare. Se il petrolio costa così poco, come mai paghiamo il gasolio come quando costava $140 al barile? Qualcuno ci sta derubando? Sì, Roberto, lo Stato, perché se lei conosce qual è la composizione del prezzo finale dei carburanti, sa benissimo che questo per quasi il 70% formato da tasse, accise e quant'altro, per cui oltre a quel più in basso di così il prezzo probabilmente non può andare, perché altrimenti veramente i benzinai come fanno a spesarsi, a quantomeno riconoscersi un piccolo stipendio. Andiamo alla borsa e alla giornata di oggi. Non abbiamo la borsa adesso, mi stai dicendo che non c'è Paolo Paronetto di Radio Cori, Le Sole 24 Ore. Gianmarco probabilmente un po' così distratto dalle vicende russe o dalle vicende greche. Paolo, tu ci sei invece? No, che io volevo mandarti la sigletta, quella, lo stacco di borsa, sai, il campanellino, ma evidentemente non ci siamo capiti. Detto questo, siccome tu oggi sei foriero di buone notizie, noi facciamo a meno anche della sigla, chiudiamo questa giornata per Milano con un +2,65%, +3,35 Parigi, +2,79 Francoforte, Londra +2, molto ben impostata con rialzi di oltre un punto anche tutta Wall Street. Non credo che abbiamo recuperato le perdite che abbiamo messo a segno negli ultimi 10 giorni complessivamente, però insomma grazie signora Yellen, potrei dire. Sì, esattamente, oggi è proprio la giornata di borsa, è stata decisamente positiva grazie soprattutto alla posizione della Fed, cioè la prudenza manifestata dalla Fed in vista del prossimo rialzo dei tassi che secondo la Banca Centrale Americana sarà comunque nel corso del 2015, ma diciamo che non c'è tutta la fretta che si temeva ci potesse essere. Ti confermo che anche nell'arco della settimana le borse sono arrivate a malapena all'equilibrio, però comunque quello di oggi diciamo che è un rimbalzo significativo per tutti i listini europei. Allora andiamo ai protagonisti di Piazza Affari, cominciamo con questo +5%, meno qualcosa di Finmeccanica, poi torno a litigare con gli ascoltatori su chi elegge che cosa. Paolo, Finmeccanica. Finmeccanica è stata alla fine il miglior titolo del FTSE MIB nel giorno in cui CDA potrebbe, aspettiamo indicazioni in questo senso, esaminare l'offerta cinese sulla divisione trasporti del gruppo, cioè su Ansaldo Breda e Ansaldo STS. L'aspettativa degli analisti è che il CDA possa concedere un breve periodo di trattativa in esclusiva all'accordata guidata dal cinese Insigma, per poi chiudere entro la fine dell'anno, come annunciato dalla D Moretti, proprio in vista di novità su questo fronte che ormai tiene banco da un po' di tempo. Finmeccanica appunto è salita di quasi il 5% e ha chiuso positiva anche Ansaldo STS e dell'1,9%. Ma su STM quindi c'è un effetto Finmeccanica +4,56 per il titolo dei chip? Ma in sì, e anche in generale di tutto il buon momento del settore tecnologico europeo. Oggi sotto indice del comparto è salito del 3,92% e qui fa da traino il +8,72% di Alcatel a Parigi sulle voci di una possibile fusione con Nokia Networks. Quindi fusioni, merger and acquisition che si rimettono in moto in qualche settore, da tanto che non parliamo di questo argomento. Buzzi Unice, M+3,45, che cosa succede su questo titolo che in qualche maniera riconduciamo al cemento? Sì, diciamo che qui si tratta di un rimbalzo grazie all'andamento positivo oggi della borsa. Il titolo aveva perso circa il 17 dalla fine di novembre, quando l'OPEC aveva deciso di non tagliare la produzione del petrolio. Ricordiamo che Buzzi è attiva in particolare nel cemento per la costruzione di pozzi petroliferi. Il calo dei corsi del greggio ha frenato o anche fermato in molti casi gli investimenti per nuove costruzioni di questo tipo, quindi nuove esplorazioni e nuovi pozzi, e quindi il titolo aveva risentito di questo calo generalizzato. Poi oggi nella prima parte della giornata anche il petrolio rimbalzava e quindi anche questo sosteneva il titolo. I corsi del greggio hanno invertito la rotta sul finale, ma Buzzi ha comunque chiuso in territorio positivo. E invece i titoli energetici e petroliferi come sono andati? Diciamo che per gran parte della giornata sono stati sostenuti proprio dal rimbalzo del petrolio e anche alla fine hanno mantenuto questo andamento positivo, quindi gli investitori hanno preferito continuare a riprendere posizione dopo evidentemente essere usciti nel corso delle ultime sedute, nonostante sul finale appunto adesso il petrolio sia tornato a scendere di oltre un punto percentuale. Unipol ha comunque chiuso Eni è chiuso in rialzo del 3,13% guidando tutta la pattuglia degli energetici, che è tutta in positivo. Tutta la pattuglia, ci piace questa immagine. Nei bancari, il miglior titolo Intesa San Paolo +3,39, bene Generali +3,38, Mediolanum +3,33, bene tutte quante le banche, anche perché il BTP scivola sempre più in giù. Paolo, devo andare a sentire il giornale radio adesso, ti traghettiamo dall'altra parte per altre due o tre storie, ci sei? A dopo, sì. A dopo, grazie. Sappiamo che le basi musicali di Focus Economia sono molto apprezzate dai nostri ascoltatori, però dobbiamo raccontare prima o poi anche qualche notizia. E allora avevamo brutalmente interrotto il resoconto della giornata di borsa con Paolo Paronetto di Radio Corri, Le Sole 24 Ore. Abbiamo detto che questa giornata, grazie alla Federal Reserve, si è conclusa molto positivamente per gli listini europei, che hanno un po' recuperato dopo le batoste subite negli ultimi giorni per la crisi russa, per le novità politiche dalla Grecia e quant'altro. Abbiamo raccontato già, Paolo, di Finmeccanica, STM, Buzzi Unicem, dei titoli energetici. Andrei un po' adesso a fare il focus sui titoli bancari. Il migliore oggi è stato Intesa San Paolo +3,39%, il Leone di Trieste, quindi Assicurazioni, Generali +3,38%, Mediolanum +3,33%, ma sono andate bene tutte con un'unica eccezione ancora una volta. Sì, esattamente, l'eccezione che ricordavi tu è MPS, che è almeno nel FTSE MIB, che rimane sotto i riflettori ovviamente per dopo la bocciatura da parte della BCE, il via libera di Francoforte al piano di recupero patrimoniale. Adesso bisognerà vedere come verrà effettivamente messo in pratica. MPS ha perso l'1,7%, le banche in generale hanno approfittato del clima migliore oggi sui listini, anche la borsa russa ha recuperato un altro 6,5%, quindi contribuendo ad allentare le tensioni. Al di fuori del FTSE MIB, l'altro titolo bancario che non ha tenuto il passo, fermando i rialzi soltanto allo 0,83%, è Carige, altra banca che è stata bocciata dalla BCE. In questo caso paga in particolare le indiscrezioni su una possibile revisione al rialzo dell'importo dell'aumento di capitale annunciato. Era annunciato fino a 650 milioni, secondo indiscrezioni potrebbe arrivare a 700 milioni. Sono le due banche che hanno ricevuto la sonora bocciatura dagli stress test della Banca Centrale Europea, tentano in qualche maniera di correre a ripari, ma insomma cedere asset per la banca senese è molto difficile, per Carige raccogliere soldi sul mercato naturalmente da parte degli azionisti altrettanto, situazioni delle quali sentiremo parlare ancora a lungo. G-Tech, la ex Lottomatica, Paolo, oggi com'è andata? Mi pare benino anche questa. Molto bene, è stata andare migliore per gran parte della giornata, alla fine ha un po' frenato, ha chiuso in rialzo del 2,21% e qui il titolo ha beneficiato della decisione del CDA di pagare a gennaio un acconto sul dividendo per 75 centesimi di euro ad azione. È una notizia che ovviamente gli azionisti apprezzano e il titolo oggi ne ha beneficiato. Allora, farei una rapida lista degli altri peggiori titoli della seduta, per fortuna ne abbiamo solo tre oggi: Campari -1,37, Saipem -0,58. I titoli che hanno guadagnato meno a Piazza Affari oggi hanno addirittura avuto rialzi superiori al punto percentuale: A2A +1,23%, Fiat Chrysler +1,42, Luxottica +1,56, CNH +1,61, e poi insomma tutto positivo. Oggi il quadro che raccontiamo della seduta di borsa, quantomeno chiudiamo serenamente la settimana. Se non hai altri casi da segnalare, Paolo, ci salutiamo. Sì, direi che abbiamo detto tutte le cose principali. In realtà oggi non abbiamo detto tutto, perché devo raccontare adesso, intanto grazie a Paolo Paronetto di Radio Core Il Sole 24 Ore, di un debutto in borsa. Insomma, nonostante queste borse siano ritornate ad essere piuttosto volatili per motivi di natura internazionale, come sapete, a Piazza Affari zitta zitta c'è un segmento che sta andando molto bene. Pensate che solo quest'anno ha avuto 22 nuove ammissioni, 57 sono le società quotate in questo segmento per le piccole imprese, Lime. Nel 2014 ha raccolto complessivamente questo comparto di Piazza Affari quasi 210 milioni di euro, di cui circa 186 derivanti da operazioni di aumento di capitale. E insomma, sta andando bene, al punto che ha attirato anche un'altra società che ha debuttato proprio oggi. Parliamo della Giorgio Fedon e Figli SPA, una società attiva nella produzione e distribuzione di astucci, accessoristica per occhiali e produzione e commercializzazione di prodotti in pelletteria. Buonasera Callisto Fedon, presidente della Giorgio Fedon e Figli SPA. Buonasera. Buonasera. Allora, com'è andata questa quotazione, Presidente? È andata bene, direi. Noi parliamo di cross listing in quanto siamo già quotati anche a Parigi dal 98. Noi siamo su Euronext a Parigi e abbiamo fatto questo dual listing o cross listing, come si dice più tecnicamente, oggi a Milano. È andato bene perché il titolo oggi è salito molto. E quindi siamo soddisfatti, c'è stata una forte richiesta, siamo, mi pare, se non, io sono in auto adesso che sto rientrando, dovremmo essere sul 26% di crescita oggi del titolo. Insomma, a parte, diciamo, allora dobbiamo anche dire che questi sono segmenti piccoli, gli scambi sono sottili, quindi magari adesso, non per sminuire ovviamente, Presidente, quello che vi è accaduto oggi, perché è comunque una prestazione assolutamente di tutto rispetto. Diciamo che rispetto alle big cap, alle società grande capitalizzazione, per queste piccole, per queste società un po' più piccole, bastano magari pochi ordini per creare anche delle performance eccezionali come questa. Detto questo, tanto di guadagnato, perché sono giornate un po' difficili, per cui anche portare a casa un risultato di questo tipo è di tutto rispetto, direi. Lei ci ha subito specificato questa modalità di quotazione, no? Perché eravate già al NYSE Euronext di Parigi e adesso avete scelto anche di quotarvi sulla borsa italiana, il cross listing, detto in gergo finanziario. Ma mediamente, Presidente, non si fa un po' il contrario? Magari prima si sceglie la borsa domestica, il paese di riferimento, e poi magari si va su un circuito internazionale. Perché voi avete fatto il percorso contrario? È la domanda che mi hanno fatto sempre tutti. Ah, ecco, quindi non sono neanche originale, ecco. No, anche appena dopo la votazione a Parigi ero proprio venuto a Palazzo Mezzanotte a raccontare questa nostra esperienza. Diciamo che in quegli anni c'era sul mercato francese una forte attenzione sulle PMI, cioè le piccole e medie aziende, come eravamo noi, e che fra l'altro vedeva la nostra crescita proprio orientata verso i mercati europei, francese e non solo, e quella era l'occasione per crescere di più, crescere all'estero, quello che stiamo ancora facendo e che stiamo consolidando. Noi abbiamo subito dopo la quotazione, dove, ripeto, la quotazione a quei tempi non ci ha dato finanza, perché non abbiamo aumentato, non abbiamo fatto un aumento di capitale ma soltanto un collocamento già nel 98, sì, come abbiamo fatto oggi del resto, però ci ha dato la struttura e la mentalità per crescere. Abbiamo subito dopo acquistato i nostri due concorrenti maggiori europei, quello francese e quello tedesco, e stiamo consolidando la crescita. Quindi va bene ancora per noi la Francia, che è un mercato regolamentato, quindi è un mercato che ci richiede tutta una serie di attività a supporto, e questo mercato AIM, che è molto dinamico, molto attivo, molto consono a questa azienda che noi chiamiamo giovane perché ha 100 anni quasi, quindi quando si hanno tanti anni così o si ritorna giovani oppure si rischia di non esserci più, quindi è un po' un gioco di parole, ma è la vera realtà. Presidente, le chiedo di ascoltare con noi, se ha un minutino di pazienza, quello che succede sulle strade italiane, poi voglio che ci racconti ancora qualche dettaglio in più sulla storia di questa azienda che ha come sede la località di Vallesella di Cadore, giusto? Esattamente. Stavo così, dove è nata? Il distretto dell'occhialeria. Il distretto dell'occhialeria, che però insomma ormai ha una risonanza di carattere mondiale, direi basti vedere quello che è successo a Luxottica in questi ultimi anni, e poi ci racconterà anche se avete progetti di internazionalizzazione che guardano anche a queste aree, alla Cina, all'India e ad altro ancora, tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, concludiamo la nostra intervista con Calisto Fedon, presidente della Giorgio Fedon e Figli S.P.A., il debutto della giornata per quello che riguarda la borsa italiana sul segmento AIM, più 26%, un debutto decisamente brillante per questo gruppo che era già quotato al NYSE Euronext di Parigi, ma poi ha deciso anche questa scelta per completare appunto il proprio raggio d'azione. Parlavamo di progetti di internazionalizzazione che voi avete condotto in porto, dottor Fedon, già con la prima quotazione appunto alla fine degli anni 90, grazie a quell'operazione siete riusciti proprio a sbarcare sui grandi mercati internazionali, dagli Stati Uniti ad Hong Kong, la Cina, poi per quello che riguarda l'Europa, in Germania, in Romania, leggo. Adesso questa nuova iniziativa di mercato dove vorrebbe portarvi? In questi anni appunto abbiamo cambiato completamente l'azienda. Il grosso fattore è stata la concorrenza cinese che ci ha portato a concorrere proprio sul loro territorio per poter continuare a lavorare. Diciamo che ci siamo continuamente modificati per continuare a restare italiani. Siamo ancora 260 persone in Italia e il cuore rimane completamente italiano, veneto, io dico bellunese e anche montanaro, dolomitico, adore. Su un totale, cuore, presidente, lo ricordo, di 1567 dipendenti. Certo, certo. Ecco, adesso se nel 98 siamo andati per crescere, diciamo, in quello che è il B2B, cioè nel mercato verso i produttori e i negozi, quello che era il nostro core business, quindi portochiali e accessori, adesso veniamo a Milano perché stiamo crescendo nel retail, stiamo aprendo negozi. Da quando ci siamo messi a produrre, oltre che portochiali, anche accessori di pelletteria, borse, regali, occhiali anche in un certo senso, in piccola parte, molto specialistici, abbiamo cominciato a venderli tramite i nostri negozi e anche tramite delle partnership. E quindi il nostro obiettivo adesso è andare al dettaglio, continuare a essere produttori, perché noi continuiamo a produrre, siamo un'azienda che produce quello che vende, questo è importante. Potremmo essere produttori, adesso cominciamo a venderlo al dettaglio con un successo che ci fa ben sperare, soprattutto in aree come gli aeroporti, come l'area a grande frequentazione. Siamo presenti a Roma con due negozi, a Venezia, aeroporto, abbiamo appena aperto a Venezia città in questi giorni, abbiamo aperto a Lonato, quindi abbiamo circa un 12 punti vendita che speriamo in questi anni di sviluppare e portare a Presidente, a la vostra attività è proprio uno schiaffo alla crisi in questo momento, ma come fate ad operare in un paese come questo dove, come dire, le difficoltà si annidano in ogni angolo? Ci dà la ricetta di un'azienda di successo, la ricetta che dovrebbe seguire questo paese per tirarsi fuori da queste secche? Poi la salutiamo. Allora, siamo un'azienda di successo, grazie, lo prendo volentieri, ma soprattutto siamo un gruppo di persone. Oggi ho trovato il più grande complimento che mi hanno fatto, mi creda, lo dico con il cuore. Qual è stato? È che più di qualcuno mi ha detto: è difficile trovare un gruppo come il vostro, che comprendeva il nostro G8, che noi chiamiamo così, che è il gruppo dirigente, sono otto, più il nostro consiglio, il nostro collegio sindacale, le persone che lavorano con noi, e diciamo la nostra forza ritengo sia questa. E questa ricetta secondo lei è applicata alla politica economica di un paese, come si potrebbe tradurre? Magnifica squadra che vince. Allora, speriamo che magari qualcuno abbia sentito. Siccome l'indicazione sul prendere decisioni collegialmente viene spesso e volentieri indirizzata all'esecutivo attuale, magari non si sa mai che questo suggerimento venga preso anche oggi dalle sue parole. Presidente Fedon, grazie per essere stato con noi e bocca al lupo grazie per tutto. Buon grazie, lavoro. Grazie, buona serata. 5 minuti, ultimo approfondimento di oggi. E ci colleghiamo subito con Bruxelles, dove abbiamo mandato il nostro Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, Sergio sta seguendo il vertice europeo, ci spieghi intanto cosa è stato fatto oggi e qual è lo spirito di questo vertice, Sergio? Diciamo, dal punto di vista economico, il focus principale di cui si sta parlando proprio in questi minuti è il piano di investimenti Juncker. Di fatto quello che avverrà sarà un'approvazione, diciamo che ci mancherebbe altro, potremmo dire, se non venisse approvato il piano Juncker sarebbe veramente una situazione critica. Il problema sta nei dettagli di questo piano Juncker. Allora, sì, ci sono i 21 miliardi di partenza, lo ricordiamo, Juncker ha presentato il piano il 26 novembre al Parlamento europeo, che con una leva finanziaria dovrebbero arrivare a 315 miliardi con stima minima. Il famoso 1,15, no, se non mi esatto. Ricordo male, sì. Ottimista, questa è la critica che viene fatta, di investimenti proprio in Europa, diciamo nei prossimi 3 anni, questo è l'obiettivo. Su questo tutti ovviamente sono abbastanza d'accordo. Ciò di cui si sta discutendo è però in che modo scorporare gli investimenti. Allora, l'Italia ha sostanzialmente ottenuto dalla Commissione europea che gli investimenti che verranno fatti dagli Stati membri, insomma gli investimenti pubblici, perché quelli privati bisogna ancora vedere se arriveranno, saranno considerati neutralmente ai fini del calcolo del deficit e del debito, quindi non saranno computati nel patto di stabilità. Però Renzi vuole che anche gli investimenti dei cofinanziamenti che vengono aggiunti ai fondi strutturali europei, quindi gli investimenti nazionali, vengano scomputati. Potrebbe essere un tema che l'Italia vorrà in questi minuti. Staremo a vedere. Abbiamo visto un Renzi discutere animatamente con Angela Merkel durante la foto di famiglia. Chissà, era abbastanza animata anche la Merkel, non c'era attenzione, però erano impegnati in una discussione abbastanza. Domani animata. Guarderemo sui giornali con ossessione la photo opportunity dei capi di Stato e di Governo quando partecipano, per vedere se si nota questo nervosismo appunto fra Angela Merkel e Matteo Renzi. Sergio, chiaramente la questione russa credo che sia rimbalzata prepotentemente anche a Bruxelles. Che sensazione hai? Cosa si è detto? Sì, chiudo velocissimamente il discorso sull'altro punto fondamentale, che è sempre relativo al piano degli investimenti, che è il problema di rispetto a quanti soldi gli stati poi metteranno. Francia e Lituania hanno detto che dovrebbero partecipare, però quanto poi tornerà anche sul piano nazionale, perché poi la scelta verrà fatta da un comitato indipendente, quindi la paura di molti è mettere soldi in un salvadanaio comune e poi magari in realtà su progetti relativi al proprio territorio ne tornano meno. Anche perché in questi anni gli stati adesso poi li si può incolpare di tutto, che non fanno le riforme, ma comunque per fondare tutti questi anche contenitori per il salvataggio, il fondo salvastati di soldi, i bilanci nazionali ne hanno tirati fuori tanti, per cui si continua a chiedere da Bruxelles, immagino anche che ci sia un po' di perplessità attorno a tutto questo e molta attenzione poi sui soldi che effettivamente devono essere stanziati. Commento sulla Russia, Sergio? La Russia chiaramente preoccupa, l'ha detto chiaramente l'alto rappresentante Federica Mogherini arrivando qui al vertice, perché non è una buona notizia, ha detto, se l'economia russa è in una tempesta del genere. Renzi ha escluso nuove sanzioni, in effetti non ci saranno, però sono state decise nuove sanzioni sulla Crimea. Di fatto viene cancellata commercialmente dalla mappa europea, viene bloccato tutto, ogni tipo di investimento, persino turistico, persino a livello di crociere, che non potranno, di aziende europee non potranno più andare in Crimea, no? E quindi, però il problema è un altro adesso, perché l'anno prossimo, da marzo in poi, ma soprattutto a metà anno, cominceranno a scadere le sanzioni attualmente in vigore sulla crisi ucraina, in particolare contro la Russia e contro i separatisti russi nell'est dell'Ucraina. E quindi bisogna decidere cominciare a confrontarsi oggi su cosa fare, mantenere le sanzioni, avere un atteggiamento più aperturista. L'Italia appartiene a quel blocco di paesi che sono più soft nei confronti della Russia, però i paesi baltici, la Polonia sono molto, hanno un atteggiamento molto più duro, quindi il vero il vero possibile scontro stasera, perché se ne parlerà a cena, sarà proprio su questo: cosa fare con la Russia di Vladimir Putin in questa situazione. E tu ce lo racconterai nel corso dei nostri prossimi giornali radio. Grazie a Sergio Nava, presto e buon lavoro Sergio. Ciao. Inviato a Bruxelles, io invece ringrazio Mauro Del Corno, Leonardo Siligato e Gianmarco Ferronato che mi hanno sostenuto oggi in questa diretta anche a Focus Economia. Per quello che mi riguarda io ritorno domani con Cuore Denari alle 11, domani sera qua ritorna a prendere possesso del suo microfono Sebastiano Barisoni. Grazie a tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.